Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Voglio il tuo aiuto, ecco che voglio. Perché dovrei fidarmi di te? Non fidarti. Ci siamo ragazzi. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campione. Oggi mi metto a disposizione di quello che potrebbe essere il rilancio, essere il regista del cambio di marcia. Fare il regista l'ho sempre fatto, e quindi magari il cambio di marcia tutti insieme, perché la federazione è condivisione. Non sono un politico, se dovessi pensare a entrare nelle gerarchie dei numeri, uno non sarebbe neanche qui a mettersi a disposizione. Mi sento, come ho detto, la responsabilità di tante persone che mi telefonano e di poter essere un'opportunità che può essere colta, può essere non colta. Non è una questione di confronto, come ho detto, ma di opportunità che voglio dare a quelle persone che amano il calcio come me. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Già, siamo i giovani, giovani più giovani, come aveva chiesto Lady Barbara Berlusconi, come poi aveva ripetuto il Principe Agnelli. 800 24 00 24, il vostro numero verde. Franco Piantrini, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, Claudio Scattone in redazione. Lo so, sono un buon gusteo del giornalismo. Maurizio Crosetti collegato con noi. Vabbè, hai vinto. Buongiorno. Senti, se il presidente federale venisse eletto a suffragio universale, non ci sarebbe neanche gara, eh? Albertini potrebbe già cominciare a piazzare le piante, i ficus e le fotografie nell'ufficio della presidenza. È così, però hai già detto tu, questa frase comincia con un grosso se, e invece più che un se è la certezza che avverrà esattamente il contrario, perché Ravecchio e Macalli hanno i numeri per eleggere per l'appunto il primo dirigente che nel cognome contiene una parte della spiegazione di quello che succede al nostro calcio. La seconda, la parola Vecchio. Esatto. La parola, beh, era facile questa. Era facile, facile, però uno che si chiama Tavecchio, ma può rappresentare, può perdere una votazione, una corsa a quella specie di cimitero degli elefanti che è la Federcalcio, che è lo sport italiano, che è la Lega, la Casa dei Fantasmi, non so che cosa. Quindi un'enorme bottega, una bottega piena di Shylock, piena di mercanti che venderebbero anche tocchetti di carne umana in maniera shakespeariana, pur di non perdere il potere che hanno da decenni, che si gestiscono senza chieder conto a nessuno, senza dar conto a nessuno, spaventatissimi che qualcosa possa cambiare, una cassa terribile che gestisce un sacco di soldi, che gestisce tutto il calcio dai ragazzini agli amatori, sì, ai professionisti. C'è il alle strutture, Maurizio, il lavoro ferroviario, le strutture, i campi che devono essere rivisti, le tasse da pagare, queste cose qui, per carità. Quindi posto. Quindi sulle mani in alto ci arrendiamo, ci costituiamo al potere costituito e a Tavecchio, si va avanti con la linea della continuità, Carraro, Abete, adesso lui, sappiamo che è una questione di numeri, e quindi resa totale, giusto? Sì, resa incondizionata, anzi resa con una sola condizione, che è quella che questi signori possano continuare a spartirsi potere, denaro, influenze, politica. Ha ragione Albertini dicendo che non sono un politico, ma in quel momento Anima Pia, bravo ragazzo, racconta già la sua sconfitta. Cioè, ma può uno che non è, che si dichiara non politico, arrivare a governare un ente che è pubblico in gran parte, che ha sempre avuto la politica addosso, che serve anche a clientele politiche, a pressioni politiche? Non può, comunque, per carità, perlomeno ha avuto il coraggio di mettersi a disposizione, no, come si dice. Sì, poi sì, ci sta magari un colpo di sole un colpo di stato, un colpo di culo magari. No, ma è impossibile, perché gli unici colpi che contano qui sono i colpi dei numeri, e Tavecchio ha già oltre il 60%. Non c'è modo quindi di... Ma no, sai, è però interessante capire come andrà la battaglia che si svolge alle spalle, perché siamo in Italia, va bene, fa un po' ridere, va bene, però questo tentativo di colpo di mano, di stato, di quello che vuoi, è guidato dai ricchi, non dai peones. Il Milan, Barbara Berlusconi, l'ho detto prima, anche se l'anima è un po' spaccata perché Galliani sta dall'altra parte, ma poi vediamo, la Juventus, e poi si sono accodati gli americani di Roma, e poi c'è un po' più defilato anche il Napoli, poi ci stanno arrivando le altre, Sampdoria, Sassuolo, eccetera, eccetera. Però, strano, eh? No, più che altro è aritmetico, nel senso che qui i voti, non, come si dice, non si pesano, ma si contano. E chi può governare, chi può garantire il governo della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti, ha già vinto, nel senso che tu puoi essere anche Agnelli, ma puoi essere anche, non so, Papa Francesco, dai, ci fosse anche Papa Francesco, ecco, e poi magari anche Obama, e poi magari anche Biancaneve e i Sette Nani, e beh, vincerebbe sempre Tavecchio, non c'è poco da fare. Se li contano, Biancaneve vale 1, i Sette Nani sono 7, hanno 8 voti. Sì. Però Macali ne ha di più. Sì, ma secondo te, alle spalle di questi numeri, dietro a questi numeri e tra le righe, e nei mesi prossimi, quando Tavecchio sarà comodamente seduto sulla poltrona federale, qualcosa succederà o nulla cambierà? Perché staranno zitti la Juventus e il Milan e la Roma e il Napoli e tutte le altre? Certo che no, certo che no. Quello che non potranno ottenere subito in Federcalcio, stanno già provando ad ottenerlo in Lega, dove sì, alla fine conta anche di più la voce grossa, perché lì si discute davvero di soldi, lì non si discute più del campetto di provincia fino a San Siro, no, lì si discute dei diritti televisivi, che alla fine sono l'unico interesse vero e globale, quindi si concentreranno sull'unica cosa che interessa a questi signori, perché poi anche quelli che fanno finta di essere Che Guevara della situazione, rinnoviamo, rottamiamo, no? Non si capisce che siano più Renzi, più Grillo, più Che Guevara, però alla fine tutto questo lo fanno solo perché vogliono più soldi loro, cioè una diversa distribuzione della mutualità, una diversa ridistribuzione dei diritti televisivi, magari a seconda dei bacini d'utenza, del numero di tifosi. Cioè, non pensiamo mica che quelli che sono contro Tavecchio siano dei filantropi, ragazzi. Però perlomeno dicono non più i settantenni, senza offese per i nonni, Ascolta, avrei bisogno di altri 5 minuti del tuo tempo per altre due chiacchiere su un paio di temi che mi interessano. Credo che li otterrai. Grazie, Maurizio Crosetti, Traffico. Il mio non vuole essere un programma, questo non vuole essere un programma. Sono spunti e sono filosofie di calcio che io ho maturato da dirigente più che da calciatore, perché ho imparato in questi anni ad apprezzare quello che è il valore di ogni componente. Tutti convocati. C'è da comunicare la rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Champions es una sensación increíble y bueno, pues este año yo creo que debemos ir pasito a pasito y a ver dónde podemos llegar en la Champions, pero es una emoción que sin duda me encantaría repetir en este equipo y que seguro que el equipo se está entrenando ya y está trabajando para intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y la verdad que me encantaría repetir esa experiencia y mucho más con esta camiseta. No, yo mai aveva el viaje para andar a Turín, solo he estado aquí a Roma porque lui è stato qui. Vabbè, mi ha detto appena arrivato, guarda Manuel, abbiamo questa offerta che è buona, che anche a me mi piace, e gli ho detto dai, andiamo avanti, e così abbiamo firmato al giorno seguente. sedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non può pensare di mangiare con 10 euro. Maurizio Grosetti, mi rendo conto che la battuta fa schifo, la canzone non è una delle mie preferite. Boulevard of Broken Dreams per la Juventus, la battuta fa schifo, ma c'è da poco da stare allegra alla Juve. Sì, effettivamente Fantozzi è tornato e lotta insieme a noi. Era una nuvola e adesso è una perturbazione, non è la nuvola di fare, è la perturbazione di Fantozzi. Sta grandinando sulla testa di 11-12 milioni di persone, e ha cominciato Conte, e poi quegli altri. Morata che si è spaccato fuori 2 mesi. Morata, povero figlio, 2 mesi. Si scontra col terzo portiere, poi tra l'altro ne dici si è rotto, che ne so, in una finale di Coppa, la partita dello Scudetto. No, al terzo allenamento col terzo portiere, cioè che sfiga, oggettivamente. No, c'è proprio poveretti. Poi anche, ecco, l'ultima frase di Conte ha fatto imbufalire gli Agnelli in una maniera... Sì. Tutti si chiedono adesso perché, ecco, ve la butto lì, ma la frase sui 100 euro, 10 euro, ve lo do per certo... È una di quelle che hanno fatto più imbufalire Agnelli da quando è nato. Da quando è nato? Quando sì. Ma come? Il concetto è 10 euro. Ah. Abbiamo messo a disposizione la Juve, oh, ciccio. No, ma posso dirti la mia idea? Sicuramente sbagliata, però la mia sensazione è, stiamo conversando tra amici. A proposito, 800 24 00 24, se volete unirvi. La mia sensazione è che il mercato e queste cose siano quasi pretestuose. La mia sensazione è che davvero Conte avesse acquisito forse troppo potere all'interno della Juventus, forse troppo potere anche contrattuale, anche manageriale, anche gestionale, e questo può essere che abbia contato qualcosa. Mi sbaglio, vero? No, non ti sbagli affatto. Non solo potere, ma visibilità, ma voce grossa, ma pretese, come dire, un motore che alimentava se stesso e che metteva un po' in ombra tutto il resto. La centralità della Juve, come di ogni club, è fuori discussione, ma della Juve di più, perché sono più di 100 anni che la Juve è Juve, e a dispetto di tutti e grazie a tutti, perché grazie a Conte, grazie a Platini, grazie a Canfaro, grazie a Vivi Rosetta, grazie a Paolo Rossi, non vi elenco tutti, ma quanti ne sono passati? Boniperti, voglio dire... Zidane, Del Piero, insomma Conte va bene, certo, sì. Ok, però insomma non poteva pensare la Juventus che questo personaggio così potente, così galvanizzatore, così amato, è un po' anche scoppiato alla fine, no? Che costui diventasse il centro di gravità della Juventus. Questo sì. non lo si può permettere a nessuno, e poi comunque si parla di Conte, non di Maradona, cioè, certo. Un ottimo allenatore che ha vinto 3 scudetti. Che ha sbagliato completamente l'approccio all'Europa per 2 anni consecutivi, anche perché la Juve non era e non è, e forse non sarà, una squadra in grado di vincere la Champions o di battersi alla pari con le più grandi. Lui comunque ha sbagliato totalmente quest'anno la Champions, sì. E ha anche un po' schifato l'Europa. Lì non è più le ha sbagliate tutte e due, e non so, Maurizio, le ha sbagliate tutte e due, e non so quale errore dei due è stato peggiore. Forse addirittura il secondo, forse addirittura il secondo è quello che ha infastidito di più, perché ma ci credo. La Juve questa coppa la voleva, ce l'aveva già in Piazza Castello, Platini l'aveva consegnata già qui, nella piazza principale di Torino. E tu non arrivi nemmeno in finale, no, non si può. Poi dai la colpa all'arbitro, a Lisbona, sì. Tu che parli, sì, per un anno di quanto è provinciale rincolpare gli arbitri. Lì è cominciato Conte, secondo me, a scoppiare un po', cioè, quando ha cominciato a parlare in quel modo. Poi tutti i giornali stranieri, i siti, hanno rilanciato queste strane parole di un allenatore che aveva meritatamente, come dire, era stato meritatamente inferiore per merito degli altri, voglio dire, a Lisbona, e ci stava, però io poteva tranquillamente vincerla al ritorno, la partita, quindi insomma alla no fine... Ma non c'è, non, secondo me non ci sono scusanti da questo punto di vista. È difficile trovare delle motivazioni, delle giustificazioni, anche perché ha sbagliato principalmente la gestione e poi anche le partite. Certo che Mau, per chiudere, va bene, sbagli la campagna europea, poi solito mercato sobrio del Real Madrid, James Rodriguez 80, cross 25, fan 105, oggi circola una foto sui social network, Real Madrid dal 7 all'11, Ronaldo, cross, Benzema, Rodriguez, Bale. Dove vuoi andare? Ma dove vai? Te lo dico io, a fare un tifo sfrenato perché l'Atletico Madrid aspetta un altro campionato, non per fare sempre quelli politicamente corretti che stanno con gli indiani, sì. Però quando i Cowboy esagerano, poi basta, però. Cioè, in quanti giocano? In 14, in 15, poi Occhio che la sovrapposizione, l'accatastamento di campioni dell'epoca dei Galacticos, ve li ricordate? Zidane, sì, come no, come no. Quel Real lì non vinse, quel Real lì. Poi dopodiché questo uno pensa come fa a perdere. Poi c'è quel grandissimo normalizzatore, calibratore di tutto che è Ancelotti. Quindi questo è questa è una grande forza. Se ci sarà a tenere fuori qualcuno, lui lo farà. Ha tenuto fuori Bale, che gliene frega. Certo. Però certo, quando è così posso dire che non è il calcio che piace a noi. Ma puoi dirlo altro che. Oh, ma puoi dirlo altro. Anzi, se vuoi lo scriviamo pure, in modo che, sai, verba volant. Facciamo un hashtag che adesso è di moda, un hashtag. Guarda, io non sono capace, mi arrendo e mi affido a Franco Piantaneda, ci pensa lui. Grazie Maurizio. Ti abbraccio forte. Ciao. Maurizio Crosetti, Repubblica. Ascoltatori 800240024, numero verde. Luigi D'Alecco in linea, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. A lei. Io vorrei dire due cose velocissime. Una riguarda la federazione, questa voglia di rinnovamento che purtroppo si scontra con troppa gente attaccata alle poltrone, che difficilmente, e lo vediamo purtroppo in Italia a tutti i livelli. Quindi io spero che Albertini possa fare qualcosa, però. Ma cosa? Cioè, secondo me quello che doveva fare l'ha già fatto. L'ha già fatto candidandosi, l'ha già fatto spiegando in maniera meravigliosa il suo pensiero quello che vuole ieri fare, sì. Quindi più di questo non può fare. Quanto al resto, io spero che al prossimo mondiale fallito non ci si metta tutti, compresi quelli che eleggeranno Tavecchio, a strillare come zitelle impazzite a rinnovamento, a che cos'è questa, perché poi cominciano a strillare, compresi quelli che a strillare sui problemi del calcio e su quanto fa schifo il calcio di casa nostra, piangersi addosso lo sport nazionale, però non dimentichiamoci di chi andrà ad eleggerlo. Esatto. L'altra cosa che rispecchia un po' questo andazzo della federazione, qualche giorno fa, leggendo un giornale sportivo, c'era un trafiletto che parlava della prossima Supercoppa italiana che si giocherà il 23 dicembre. Sì. No? Sì. Si parlava di Dubai, America, a un certo punto in fondo non è scartata la possibilità di San Siro. A San Siro il 23 dicembre ci sono 40 gradi all'ombra, gliela butto là così. buongiorno Luigi, buongiorno. Ma non è questione, la Supercoppa italiana ormai da anni vabbè, non vi piace, ve lo dico lo stesso, è un prodotto da vendere all'estero e tant'è, e quindi in questo modo viene gestita, ma io non ci trovo neanche niente di particolarmente perverso in questo. Tutto sommato è un trofeo rappresentativo, e se dobbiamo tentare di vendere quel che resta del nostro calcio magari ad investitori stranieri o a, insomma, potenziali telespettatori stranieri, va bene anche questo. Ulisse, buongiorno. Cesena. Buongiorno, sono Ulisse da Cataldi Principe. Volevo dire due cose, una sulla federazione e l'altra sulla Juventus andando a Conte. Per quanto riguarda la Juventus, dico che moltissimi tifosi della Juventus, non so, come un branco di pecore, di mucche, per non dire buoi, hanno subito tradito Conte. Era il nostro valore aggiunto, era il grande capo, era chi comandava, era quello che se ne intendeva. Adesso, come gli Agnelli tutti contro Conte, e viva Andrea Agnelli. Io penso che questa proprietà non meriti la Juve. Bah, perché non so. Spende per la Juventus? Beh, no, spende. Spende quello che può, Ulisse. Spende quello che può. In questo momento è quella che spende più di tutti in Italia. Ma è anche quella che guadagna più di tutti con il nome Juve. Io penso che l'attuale proprietà, per l'attuale proprietà, sia un business più che. Non c'è amore da parte dell'attuale proprietà nei confronti della Juventus, come l'avvocato Agnelli e il dottor Umberto Agnelli. Erano sì. Non è che spendevano quando spendesse Moratti, però comunque amavano la Juventus, avevano a cuore la Juventus, mentre gli Elcane non ce l'hanno a cuore la Juventus. Ulisse, guarda, no, ma non lo so, questo è il suo pensiero, io non voglio cambiarlo, mi permetto di dubitarne, mi permetto di dubitare del fatto che la famiglia che possiede la Juventus da sappiamo quanto tempo non abbia a cuore le sorti della Juventus, mi sembra un po' tanto. Quanto al resto, secondo me la politica che viene fatta è corretta, certamente la Juventus è, non dimentichiamo, dal punto di vista manageriale, perché è inutile far finta che questo aspetto del calcio di oggi sia solo cuore, passione, tutte queste cose, perché non è così. Non è così, lo sappiamo bene. Per stare in piedi nel calcio di adesso bisogna essere saggi, oculati, fare le cose nel modo corretto, e mi sembra che la Juventus l'abbia fatto e lo stia facendo, probabilmente più di tutti gli altri in Italia, perché non dimentichiamo quanto sia importante il discorso infrastrutturale, lo stadio eccetera. Quindi non credo che questo ciclo non sia assolutamente casuale dal punto di vista della programmazione gestionale. 800240024, numero verde. Bruno La Modena, mi aspetti lì, dopo la borsa parliamo. Bruno, no, parliamo subito. Allora, parliamo prima della borsa. Niente, anzi, facciamo anche la borsa magari. Dica. Che facciamo? Allora, io volevo spezzare più che una lancia di più a favore di Albertini. Sì. Premetto che non mi piaceva come giocatore, perché giocava una squadra avversa alla quale io ci tenevo. Ma come persona adesso mi piace, e anche parecchio. Dunque, già il Tavecchio sta nel nome, questo è vecchio, si deve togliere dai piedi. Perché guardi, Genta, io gli dico una cosa in tutta onestà, io sono uno che ha fatto anche un po' di politica. Sì. A 50 anni mi sono ritirato, adesso ce ne ho 52. Sì, però Bruno, posso dire una cosa, poi mi replica, secondo me non è una questione di età anagrafica, cioè perché quella dell'età anagrafica, ma guardi, Genta, non è solo una questione di età anagrafica. Io non ho mai, cioè è più facile che sia incoglionito un ottantenne che un trentenne. Un quarantenne, sì, questo sta nella natura, questo l'ha deciso la natura. Questo sta anche nel nome, ma vecchio, e questo è vecchio, se ne deve andare, se ne deve andare. Ma invece arriverà, perché arriverà. Che possiamo fare? Cioè, l'ho detto prima, Bruno, se il presidente della Federcalcio venisse eletto a suffragio universale non ci sarebbe corsa con Albertini, perché è chiaro che il sentimento della gente è questo: usciamo da questo tipo di mondiale, siamo in questo tipo di situazione, tutti quanti abbiamo voglia, quando qualcosa non funziona, che si fa? Si cambia. Però non andrà così in questo strano mondo che è l'Italia e il calcio italiano. Borsa? Bruno, grazie. 800240024, adesso sì, borsa. Ma sì, ma ripeto, poi dispiace, perché con due tiri in porta noi siamo usciti. Tra le due partite penso che la squadra meritasse molto molto di più, invece alla fine è stata premiata quella, secondo me, meritava di meno. Però questo è il calcio, l'ho detto, ragazzi. Tutti convocati. Allora, tanto per riepilogare le notizie di oggi, sappiamo dell'infortunio di Alvaro Morata ieri, ne abbiamo parlato prima con Maurizio Crosetti, però per essere precisi, oggi sono stati effettuati gli esami, lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, prognosi per il completo recupero ai 50 giorni per Morata. Ci sono voci di mercato secondo cui la Juventus starebbe già pensando ad un altro attaccante. I due nomi sono quelli di un signore che conosciamo abbastanza bene, Samuel Eto'o, e quello di Lukaku, giovane attaccante del Chelsea e della nazionale belga. Però sempre sul fronte del mercato ce n'è anche un'altra di voce, con il Liverpool che, a differenza delle squadre italiane, ha le tasche piene di soldi, 150 milioni così da mettere sul mercato, e un grande interesse per Vidal e Pogba, o uno o l'altro o tutti e due, non credo tutti e due, ma credo che questa trattativa ci sarà. Poi altra notizia invece è che nel pomeriggio sarebbe il caso di dare un'occhiata alla finale del mondiale del fioretto femminile, dove c'è l'unico vero dream team assoluto del nostro sport, cioè quello di Arianna Enrico, Battini, Vezzali, Elisa Di Francesca, che saliranno in pedana per l'ennesima finale mondiale in questo sport e in questa specialità. Asfaltata la Corea del Sud in semifinale 45-23 contro la Russia a Kazan per la finale per l'oro. Poi ho altre notizie da darvi, ma dopo lo faremo. 800240024, ora voglio parlare con gli ascoltatori. Fabio da Brescia, buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, ciao. Sono juventino, ti ascolto tutti i giorni, bellissima trasmissione. Grazie. Volevo solo rispondere a quello juventino che si sente offeso perché Conte, che la proprietà ha fatto andare via Conte. Io sono juventino dagli anni 70, ok? Sì. Se ragioniamo in questo modo avremo ancora caos in campo, oppure Bettega in attacco, per cui è inutile fare questi ragionamenti. La Juve rimane, sì, gli allenatori e i giocatori passano. Questo è un ragionamento generale che ho sempre condiviso, allenatori e giocatori passano, la maglia resta. Esatto, per cui secondo me se Conte ha voluto andare via avrà fatto l'errore che poi ha messo Deschamps quando ha lasciato la Juve in B, dicendo che se ci pensava due volte non l'avrebbe lasciato. Ma guardi, io comunque ho la sensazione che sia una decisione che insomma andava bene ad entrambe, eh. Non pensiamo che sia stato Conte a voler andare via, che la Juventus si sia stracciata le vesti. Sicuramente no, però voglio dire, purtroppo siamo un campionato in cui a me piacerebbe pensare che Vidal resta con noi fino ai 37 anni, ma non ci credo. Non ci credo mai, purtroppo questo è un campionato. Ma mi dico una cosa, ma secondo lei la Juventus spende poco sul mercato? La Juventus dovrebbe spendere di più? No, secondo me spende il giusto spendibile, perché 80 milioni per quel colombiano obiettivamente per me sono un'assurdità. Quel colombiano che di nome fa Cuadrado? Rodrigo, no. 80 milioni giustamente per Rodrigo, quello che ha speso Real. Passava l'altro colombiano, quello che invece alla Juventus interessava, che costerebbe. Sì, però cioè, voglio meno dire, della metà. Hanno fatto un campionato buono, cioè non stiamo parlando di Maradona, con tutto il dovuto rispetto, non stiamo parlando di Maradona. Cioè, allora veramente per Vidal ne voglio 100. Cioè, io ragiono così, sì. 80 milioni per James, come cacchio si chiama? Non chieda a me che non ho ancora capito. Io mi rifiuto, tutti dicono che si chiama, bisogna pronunciarla alla sudamericana James, a me fa schifo, quindi a me piacerebbe dire James, però esatto. Non voglio neanche fare il fenomeno, quindi se si chiama in quel modo lì. Sì, lo chiamiamo, però voglio dire, 80 milioni per un giocatore che ha fatto un mondiale buono, è una follia. Sì. Fuori ogni logica. Sì, ma non dimentichiamo però che si partiva da un valore di base che era già molto alto per questo giocatore, perché un anno fa il Porto, e loro sì, sono dei veri fenomeni, dei veri mercanti fenomeni ovviamente dal punto di vista pallonaro, l'avevano venduto per 45, quindi già si partiva da molti soldi, è un giocatore già molto quotato, quindi noi il grande pubblico l'ha scoperto in questo mondiale, però che sia un giocatore di talento si sapeva già prima. Sì, però quello no, che devo dire, la Juve ha preso Pogba a zero e non lo conoscevano, in pochi, per cui il mercato della Juve, delle italiane, è questo, prendere un giocatore giovane, farti una scommessa, se ti va bene lo rivendi a 40-50 e ne compri un altro. Bisogna essere, è chiaro che quello è un colpo che non riesci a fare tutti i giorni, caro Fabio. Quello di Pogba è stato un affare che non capita tutti i giorni. Grazie Fabio. Filippo Varese, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. A lei. Io volevo rispondere all'amico juventino, credo si chiamasse Ulisse, insomma, si lamentava della proprietà Agnelli. Ecco, io sono un tifoso milanista, se vuole possiamo fare uno scambio, gli diamo Berlusconi, va benissimo. No, più che altro a me sembra così bizzarro, poi ognuno ha le sue idee, mettere in discussione il fatto che questa proprietà, che questa famiglia che si identifica come nessun'altra con quella squadra di calcio stia facendo tutto questo cioè stia gestendo la Juventus per pure ed esclusive ragioni commerciali. Questo secondo me è abbastanza difficile da credere, da pensare. Sono d'accordo con lei e purtroppo vede, forse nessuno l'ha detto, ma credo che soldi non ce ne siano. Quindi va davvero, è così. pensavo ce ne fossero tantissimi, no, anzi bisognerebbe dire in un altro modo, visto la radio che ci ospita, le risorse vengono allocate in altre destinazioni. Bravo. Magari forse è meglio. Sì, le risorse disponibili vengono allocate altrove. Lei come lo vede Conte, un eventuale Conte alla guida della nazionale, anche se dicono che risulta che non ci siano per il momento, vabbè, questo è chiaro, non presidente federale ufficialmente deve ancora essere eletto, non ci sono per il momento trattative avanzate, diciamo così, per Conte. Lei come lo vedrebbe? Ma io non lo vedo male, a dire la verità. A me Conte non dispiace, più che altro come motivatore, non lo so. E quindi forse nelle partite importanti, partite secche, magari potrebbe... Ha commesso sì alcuni errori in alcune partite, specialmente in Europa, però insomma... Ma secondo me comunque questa è la principale, così, la principale corrente di pensiero, quella di Conte motivatore. Secondo me è abbastanza riduttivo nei confronti di Conte, che è certamente un grande motivatore di uomini, un grande gestore di, parliamo sempre nel linguaggio di prima, di risorse umane. Però secondo me ha dimostrato anche di essere un eccellente allenatore da altri punti di vista. Secondo me è riduttivo dire, come ha fatto peraltro Brandelli, ma Conte non potrà motivarli, quindi non potrà usare la sua principale abilità, sto parlando in nazionale, vedendo i giocatori una volta ogni tanto. Secondo me è riduttivo pensare a Conte esclusivamente come motivatore. Se non c'è solo la parte scientifica dei dati da cui fare riferimento, se uno va forte o meno di più in salita, perché sono, i dettagli sono poi quelli sicuramente che non fanno solo la differenza, perché bisogna mettere sempre cuore, anima in ogni cosa che si fa. Io penso che in questo tour dall'inizio fino alla fine ho cercato di dare un'interpretazione molto diversa, di cercare di attaccare nelle tappe relativamente più semplici, ma anche in quelle più difficili, forse questo è quello che sono riuscito a dare. Penso che questa frase così più o meno l'aveva detta anche Leonardo da Vinci, no? Non è solo il dettaglio quello che poi alla fine arriva magari a cercare di conquistare le cose, proprio mettere la differenza tra cuore e tutto il resto. Pier Augusto Stagi, hai visto molti corridori vincere il Tour de France, ma Leonardo da Vinci mai, vero? No. Leonardo da Vinci, no. Prima maglia gialla, vediamo se poi lo vince Leonardo da Vinci. Speriamo. Ma non l'ha mai vinto, non l'ha mai vinto, no? Lui, come ho scritto questa mattina, l'ha pensata, l'ha disegnata. È stato un grandissimo visionario e Vincenzo Nibali è uno di quelli che sta portando questo mezzo all'apice. Io non ho mai trovato, diciamo, un corridore, un ragazzo di 29 anni che abbia la sensibilità di Vincenzo, la lucidità anche di raccontare davanti ai microfoni di tutto il mondo, perché possiamo dire veramente di tutto il mondo. Al primo giorno di riposo ha incantato i francesi, li ha resi felici, perché ha cominciato a parlare di storia del ciclismo e non l'ha fatto per retorica, perché è così. Vincenzo, sì, i genitori di Vincenzo per tanti anni hanno avuto un negozio che affittavano videocassette e lui divorava videocassette di ciclismo a iosa, soprattutto sulla storia del ciclismo e in modo particolare negli anni 70, lui è appassionatissimo. Però conosce molto bene la storia di Coppi, di Louison Bobet, di Pulidora. Lui deve vederlo al mattino, chiede espressamente. Oggi mi piacerebbe, Rino lo vede sul palco tutti i giorni, che non c'è bisogno, però ha voluto conoscere Pulidora, ha voluto conoscere Bernard Thévenet. Cioè, per lui è come veramente toccare un cielo con un dito e vivere in un sogno, sì, dove tutti questi giocattoli sono lì a disposizione. Ma sai, comunque in tutto questo sta dimostrando di essere in grado di usare il cervello non solo in bicicletta, ma anche, e questo non è abituale nel ciclismo, anche nei rapporti con la stampa. Non so se sia la lezione di Mourinho, non so nemmeno se Vincenzo Nibali sia appassionato di Mourinho, però questa chiamiamola strategia nella gestione dei rapporti con i media, secondo me è un plus non da poco. Pier, stai lì che ho il traffico in linea, non sulle strade del tour ma su quelle italiane, e poi ti devo chiedere delle altre cose, compresa una ed è questa: ma è vero che Nibali odia le banane? La risposta dopo. Ti voglio solo dire, sì, che tra Piero Cormano, come ha detto questa voce robotica, sì, c'è la coda perché sta guidando Raikkonen, eh? Questo è giusto che lo sappiate. È lui. sconvocati. Allora, Piero Augusto Stagio, è vero che Nibali odia le banane ed è un divoratore di pasta frolla? Sì, sì, assolutamente vero. Tutti i compagni di squadra, beh, la banana è un integratore eccezionale. Certo. Alcuni sì, vogliono certo. mangiarla anche in corsa. Sì. Lui non le vuole neanche vedere dipinte. E si fa fare apposta... E si fa fare apposta delle tartine con frutti rossi o mirtilli o fragole, pasta frolla, ma la banana no, assolutamente no. L'unico giallo che gli piace è quello della maglietta, Sì, quella della la maglietta è sempre la stessa, è uno stress, addirittura, anzi no, in realtà bisogna precisare. Dopo la tappa di Arenberg, quella della Parigi-Roubaix, dove in realtà Vincenzo ha guadagnato un'enormità, no? È stata la tappa forse a livello di distacco decisiva fino a questo momento, e era talmente sporca, lui ha voluto che Pallini, che è il suo massaggiatore Michele Pallini, gliela lavasse, ma non veniva più pulita perché era veramente intrisa di fango. E vabbè, quella gliel'ha regalata, ha detto adesso io uso questa e guai a te se me la cambi. E lui usa sempre quella maglietta, quella macchiata. Sì, in più lo cazza in maniera brutale, perché tra le manie che ha, no, cazza, non è vero, però guai, non sopporto, perché quello veramente è molto precisino. Le calze, il calzoncino e la maglietta, le lavi, però non vuole assolutamente che siano messe nell'asciugatrice, per far prima, perché rovina l'elasticità del materiale e quindi la maglia diventa più secca. E l'elastico diventa anche molto più ruvido, quindi dà fastidio. Quindi guai, bandita anche l'asciugatrice. Banana, asciugatrice, se ne parla neanche. Maglietta, maglietta quella della foresta di Arenberg con le macchioline, vabbè. Quindi. E poi quasi il 90% dei corridori alla mattina si fa fare i massaggi, lui mai, il massaggio al mattino non li vuole, e anche in giornate di tempesta, di gelo e di neve, anche in pieno inverno, mi diceva proprio Pallini, non mette neanche l'olio, il cosiddetto olio camforaggio riscaldante, Vero, lui non ha freddo e va così. Un'ultima cosa, Pierluigi, e riguarda i tre giorni del Condor sui Pirenei che iniziano oggi. Oggi tappa con arrivo in discesa non dovrebbe rappresentare un problema. Poi invece un paio di problemi nei prossimi due giorni. Ne parlavamo prima al telefono, io e te rendiamo pubblico il nostro pensiero ed è questo, adesso arriva il momento non più di essere coraggiosi, di essere spavaldi, ma di essere razionali e freddi, come Leonardo da Vinci era qualche volta. Sì, non deve essere assolutamente un Caravaggio, perché se diventa Caravaggio siamo persi tutti. Perde la calma, diventa irascibile e addio Parigi. Ma io invece vedo, ieri sono stato veramente una giornata intera all'albergo della Stana alle 11 e sono stato fino alle 20 con Vincenzo. Credimi, dovevi vederlo. Poche volte capita di vedere una maglia gialla, un leader, un corridore di livello così. Mettersi proprio a disposizione di ognuno, tranquillo. Poi è stato lì a scherzare con i suoi compagni di squadra, è andato a mangiare, ha fatto le sue cose, poi tornava, però proprio sereno, tranquillo. Questa è la sua forza, lo dicono tutti, addirittura lo prendono anche in giro in squadra, ad esempio Michele Scarponi e Alessandro Vanotti, che sono due fedelissimi. Vanotti ha dormito, non mi fraintendete, però è così, ha dormito più giorni in camera con Vincenzo che la moglie di Vincenzo, perché è da 8 anni che è compagno di stanza ed è da 3 mesi che è in giro per l'Italia e il mondo tra ritiri, corse e adesso Tour de France, ed è in camera con Vincenzo e mi raccontavano che la cosa incredibile, veramente dico, ma Vincenzo, ma ti rendi conto che tu hai la maglia gialla? E vabbè, sì, ok, ho la maglia gialla, allora allora chiaro, magari lo capirà, speriamo insomma possa capirlo tra un po'. Perché sono quelle cose che io capisco che insomma uno può essere freddo, uno può essere in grado di gestire questi momenti, ma sai, sono quelle cose che dici, la realizzo tra un po', lo capisco bene tra un po', e secondo me potrebbe capitare. Però ti garantisco, lui nel 2010 ha vinto il Giro di Spagna, poi l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia, quindi l'ho visto anche proprio all'opera completare felicemente delle grandissime corse. Lui è così, non si fa mai prendere dall'agitazione, dallo sconforto. Ha veramente una capacità di girare questo ipotetico interruttore, lo gira dall'altra parte e lui stacca. Come dice Beppe Martinelli, lui si toglie il numero dalla maglia e fine, torna vincente, mette il numero al mattino sulla schiena e diventa Nibali. E Nibali in bicicletta è tutt'altra cosa, perché non è così mansueto, non è così carino come può apparire. Sì. In bicicletta lo dicono i compagni. Io credo che nello sport, se sei carino, non vinci, Piero Augusto, ma in nessuno sport, mica solo nel ciclismo. Raccontato ieri Scarponi, mi ha raccontato la tappa dell'Etna, il Giro d'Italia, quando lui arriva, di quello vinto da Contador che poi gliel'hanno tolto, sì. No? Vede Scarponi in difficoltà e Vincenzo lo affianca e dice: Michele, come va? E lui fa così. Lo guarda e guardando il girato ha fatto una scappata e l'ha lasciato. Dice: è bastardo, possiamo dirlo, è un po' bastardo. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao, buon pomeriggio e viva il ciclismo e viva Nibali. Ma sicuro. Io parto da un presupposto che facciamo il più bel lavoro del mondo, per cui come si fa ad avere un muso lungo? Io vorrei far capire questo ai miei giocatori. Abbiamo la fortuna di giocare a San Siro, avere un centro come Milanello, avere tutto quello che un giocatore può desiderare da una società come il Milan. Per cui mi auguro che non ci siano musi lunghi, ci sarà chi è dispiaciuto che starà fuori, come è successo a me, ma che farà di tutto per dimostrare al mister che sbagliava. Quindi non è che andremo ai preliminari di Champions non preparati e sguarniti. Quindi tu stai tranquillo che da qui a qualche giorno o a qualche settimana troverai quelle ciliegine sulla torta che avevamo in qualche modo promesso a livello di ruoli. Se poi sono delle ciliegie modenesi o di come si chiama quel posto, di Vignola, eccetera, lo vedremo. E dunque da San Siro di Inzaghi alle ciliegie di De Laurentiis, a Giuseppe da Torino, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dimmi. Allora, io volevo intervenire riguardo il tema che era stato lanciato all'inizio della trasmissione, riguardo appunto la proprietà della Juventus e questi sentimentalismi sulla quale qualcuno ha fatto dei paragoni con quello che era l'avvocato Agnelli e quant'altro del passato. Io penso che questo periodo ormai sia finito, cioè il calcio sta dimostrando dove si sta orientando ed è ormai chiarissimo e penso che altre società che invece hanno programmato con i sentimentalismi le programmazioni delle società di calcio hanno dimostrato dove sono andate a finire. Vedi le squadre milanesi. Sì, insomma, a questo punto io devo dire da tifoso juventino quale sono, che sono orgoglioso della società che abbiamo, orgoglioso del lavoro che stanno facendo gli Agnelli, e volevo anche ricordare che i soldi che non sono spesi sul mercato, qui a Torino, io che ci vivo, li stanno investendo nelle proprietà immobiliari. Cioè c'è una cittadella in costruzione a Vinovo, c'è tutto un nuovo insediamento immobiliare. Questo fa parte, Giuseppe, questo fa parte semplicemente della stessa strategia che ha portato alla costruzione dello stadio e che ha portato la Juventus a gestire semplicemente il calcio come dovrebbe essere gestito nel 2014 e come normalmente avviene in paesi calcisticamente più evoluti del nostro. Il che non vuol dire che ragione e sentimento non possano convivere. Mi sembra un discorso abbastanza stucchevole questo, cioè del fatto ma quanto amano la Juventus, ma quanto non la amano, ma quanto è un affare. Ragione e sentimento possono convivere, semplicemente oggi non puoi più permetterti di gestire questo tipo di affare in maniera diversa da questa. Riesco ancora a salutare appena appena Davide dalla provincia di Forlì. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo ritornare un attimo sulle parole di Crosetti, sul discorso finale che diceva che a lui quel mercato lì non piace, il mercato dei 100 milioni per Bale, cioè secondo me volpuveggia un po', cioè nel senso fa un po' la volpe ruota, la sera non mi piace perché non posso partecipare, perché se fossimo una squadra come lo United che prende 94 milioni all'anno di sponsorizzazione pronti così via sul mercato, forse gli piacerebbe un po' di più. Sì, più che altro è tutto il sistema di una squadra che è così ricca, di queste squadre, di questa oligarchia del calcio europeo che sono così ricche da potersi permettere qualunque cosa e allargando la forbice in maniera ormai impossibile da gestire. Credo che il discorso vada inteso in questo. Anch'io da tifoso vorrei che il mio club potesse permettersi questi giocatori, ma alla fine ci divertiremmo così tanto magari in un campionato. In Italia no. Devo chiudere, ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2.